Realismo magico nella sua semplicità, anche il titolo della mostra è in programma a Palazzo Reale di Milano dal 19 ottobre al 27 febbraio, ovviamente 2022. Con noi la co-curatrice, la dottoressa Gabriella Belli, che innanzitutto saluto. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a voi. Parliamo di realismo magico, tra l'altro è spesso protagonista questa realtà in diversi fili conduttori, anche in letteratura, insomma già nel Breakfast Club troviamo tutto ciò. Arte figurativa, realismo magico, ci può dire qualcosa lei che è curatrice di questa esposizione? Naturalmente diciamo subito che è un paradosso parlare di realtà e di magia insieme, ma proprio su questi due termini si gioca questo momento straordinario dell'arte italiana del Novecento. Siamo tra il 1919 e i primi anni 30. In Italia c'è un grande movimento e un grande desiderio di ordine che riguarda proprio la fine, da un lato, della guerra e la necessità di pensare, dopo l'avventura del futurismo, ad una pittura più pacata, più di contenuto. E questo ritorno all'ordine porta naturalmente, soprattutto in Italia, una riflessione sugli antichi. L'amore si riscopre si riscopre Piero, si riscopre Giotto, ma qui si apre la questione proprio del realismo magico, perché in questi stessi anni in cui noi troviamo pittori che andiamo appunto a definire magico realisti, scoppia anche la passione di Margherita Sarfatti, che è la grande madrina di un altro filone della pittura italiana importante di questi anni, il Novecento. Il Novecento però sappiamo che è una pittura che si adeguerà molto bene anche ai diktat del regime. Patria, famiglia e lavoro sono i soggetti più frequentati dai pittori che aderiscono al movimento di Margherita Sarfatti. Invece cosa succede? Succede che una serie di pittori, tra cui nomino i più importanti, Antonio Donghi, Cagnaccio di San Pietro e Felice Casorati, mostrano di non apprezzare troppo il diktat del regime e neanche di non apprezzare troppo il coinvolgimento nelle opere di Margherita Sarfatti, e sviluppano appunto un'arte molto, molto in linea, da un lato, con questo amore per gli antichi, ma che avrà delle tensioni, delle malinconie, dei tempi sospesi e dei momenti di ambiguità molto forti, che in fondo poi alla fine noi oggi rileggiamo come arte di dissenso. Alcuni artisti che lei ha nominato, tra cui Cagnaccio di San Pietro, lascia anche aperta una porta di un dialogo importante oltre confine con l'Italia, con la nuova oggettività. Sì, certo, perché la tesi di questa mostra, il sottotitolo è Uno stile italiano, è che prima di tutto non possiamo parlare più di una corrente, di un movimento, di un sentire, di una cosa, come dire, che sembrava sempre una stampella di Novecento. No, dobbiamo proprio parlare di uno stile vero e proprio, e lo si vede molto chiaramente nella mostra, con questi dettagli molto realistici, ossessivi, questa realtà che diventa così puntigliosa che diventa perfino appunto irreale, una mancanza di prospettiva, l'assenza di luci, il disegno che diventa il primo della composizione. Insomma, e questo che cosa fa? Fa che questi artisti alla fine sono poco da confrontare con la pittura di Novecento, quella appunto di Sarfatti, mentre guardano molto al nord, guardano a questo movimento della nuova oggettività tedesca, la Neue Sachlichkeit, e anche se la temperie culturale in Italia è meno truce, meno aggressiva, meno straordinariamente forte, come ci ricordano le immagini di Otto Hicks, di Groz, di Beckmann, non c'è dubbio che la pittura degli italiani si allinea, di questi italiani, si allinea molto con questa pittura, scopre temi come per esempio la prostituzione, il disagio infantile, le difficoltà psicologiche, ecco, scopre temi che sono proprio caratteristici della Neue Sachlichkeit. Tante sono le realtà ed è un movimento veramente affascinante. Semplicità e l'istante sono state sottolineate come definizioni in questa esposizione. È corretto? Sì, è molto corretto, perché c'è un'essenzialità e un rigore formale fantastico, straordinario, una tavolozza di colori ormai assolutamente inusitati, colori acidi che non erano mai comparsi nella storia dell'arte, e poi naturalmente il tema della distanza distanza, che è la distanza dalle cose, che diventa anche la distanza dalla storia che si sta vivendo in quel momento in Italia. Com'è suddivisa l'esposizione? Com'è organizzato il percorso in mostra? In mostra abbiamo pensato, all'inizio c'è una specie di prologo in cui si capiscono gli antefatti, e infatti la mostra inizia con un quadro del 1919 di Carlo Carrà, un quadro che ha, che si intitola Le figlie di Lota, è un'icona dell'arte italiana di quel momento, è un quadro primitivista di questo pittore che poi in realtà abbraccerà Novecento, ma insomma che in questo momento nel 19 è ancora molto vergine dalle parole del regime. Questo quadro è un quadro che guarda Giotto ed è una prima icona, così come una prima icona un autoritratto di De Chirico, un bellissimo quadro di Casorati, questo ritratto della Cenci. Poi il quadro, la mostra si sviluppa attraverso una serie di sezioni. Sono sezioni che hanno dei titoli abbastanza evocativi, come una sezione dedicata ai bambini, perché sono sezioni tematiche, per esempio questa stanza dedicata ai bambini, che diventa un tema importante nella pittura del realismo magico, che è abbastanza inusitato, diciamo, in genere la pittura dei bambini, insomma, sì, si vedeva nelle grandi corti europee di Velázquez, ma insomma non è una pittura che ha molto frequentata. Ecco, invece qui torna alla grande nella pittura del realismo, intitolata La stanza dei giochi è vuota, perché proprio sono bambini adulti, bambini che non giocano, un'infanzia che preconizza già una vita di diseredati. Insomma, ci sono, per esempio, abbiamo una stanza bellissima intitolata Fermo immagine, che dà appunto il senso della realtà. Quindi sono tutte tematiche, ritratto femminile, i bambini, le nature morte, il paesaggio. Insomma, abbiamo cercato di dare completezza anche tematica, dove si capisce molto bene, soprattutto, e ne esce alla grande il tema dello stile.